Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, scusate la noia, ma credo sia utile per tutti. Ricordo che la nostra mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Ricordo che il mio blog, con il quale interloquire, è Guardie o Ladri, lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore. Ma vi ricordo anche che è possibile ascoltare le puntate perse o le puntate che ritenete di vostro interesse scaricandole direttamente o ascoltandole direttamente dal e sul sito di Radio 24, che è radio24.it. Andate nello spazio dedicato alla mia trasmissione e troverete per tipologia e arco temporale le puntate stesse. Allora, chi segue la trasmissione sa che di tanto in tanto, senza cadere nella demagogia o senza tirare giudizi affrettati che non compete a noi, affrontiamo il tema dell'assenteismo nella pubblica amministrazione. Lo abbiamo fatto, ricorderete, recentemente anche con l'ausl di Ragusa. Lì accadde che l'allora direttore generale dell'ausl di Ragusa colse in fallo due dipendenti che stavano tranquillamente sorseggiando il caffè dall'altra parte della città. Ebbene, nonostante il richiamo scritto e la denuncia alla procura della Repubblica di Ragusa, la posizione di questi due dipendenti è stata archiviata, vale a dire non era riscontrabile alcuna ipotesi di reato. E sappiamo anche che l'AUS di Ragusa su questo ha fatto appello e ha chiamato in causa il ministro Brunetta. Dal sud al centro affrontiamo oggi il caso di Firenze, dove sembrerebbe, adesso lo sentiremo però dalla viva voce di un protagonista, sembrerebbe che la Procura della Repubblica abbia messo le mani su una, diciamo così, torta avvelenata. 1, 2, 3, 10, 100, non si capisce bene quanti siano, dipendenti pubblici che nell'orario di lavoro in realtà si assentavano. Per capire un po' come sta andando la situazione in una città, in un grandissimo capoluogo quale è Firenze, per la storia e per ciò che rappresenta nella cultura del mondo, abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore all'organizzazione del lavoro del Comune di Firenze, Angelo Falchetti. Buongiorno assessore. Allora, io innanzitutto vorrei cercare di capire una cosa che mi lascia sempre sconcertato, perché ogni qualvolta si avviano delle indagini la risposta classica delle parti, di una delle parti, di due, di tre, comunque di molti dei protagonisti, volontari o involontari, delle indagini è: non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della Repubblica. Allora, questo lei lo ha dichiarato ai giornali, la cronaca di Firenze della Nazione, sabato 5 dicembre 2009 per l'ultima volta, cioè a lei non risulterebbe alcuna inchiesta in corso. È così o sbaglio o esagerano i nostri colleghi di Firenze? No, i termini sono esattamente questi. So per certo che sono arrivate delle comunicazioni a 9 dipendenti, ma al comune non è arrivata alcuna comunicazione. Ecco, ma è una prassi corretta il fatto che voi non siate informati, oppure è uno dei tanti esempi di cattiva comunicazione tra istituzioni della Repubblica Italiana? Sinceramente non so se è prassi, cioè non so se è un obbligo, non credo sia un obbligo, certo, per la procura dare comunicazione al datore di lavoro, ancorché un'istituzione pubblica. Sì. Certo è che il tema interessa il comune per approfondire la questione. È ovvio che parliamo di casi specifici. Certo, certo. Ecco, qui si parla di 9 dipendenti, o meglio, vedremo nel dipanarsi della nostra chiacchierata, che inizialmente vengono messi sotto la lente 9 dipendenti. Questo vi risulta, oppure anche questo frutto di un'esagerazione giornalistica? No, ci risulta, ma non da fonti ufficiali. Ci risulta da fonti direttamente dai dipendenti interessati, che hanno ricevuto un avviso non di garanzia ma di chiusura delle indagini. Sì, che sono durate 3 anni, ricordiamo, dal 2005 al 2008, quindi esatto, con molto scrupolo a quanto sembra leggendo le cronache cittadine. Sì, esatto, e sono riportati in questo avviso dei fatti che vengono contestati, e quindi sostanzialmente quello che viene contestato è la truffa. Sì. Perché, truffa aggravata e continuata, perché si sarebbero assentati reiterate più volte dagli uffici, nonostante risultassero ufficialmente al lavoro. Esatto. Ecco, io le voglio chiedere questo, assessore. Lei è assessore ovviamente da pochi mesi, quindi la mia è una domanda che faccio a lei, ma riguarda ovviamente non il suo presente, ma riguarda il passato, ma anche il futuro della sua attività amministrativa. Cioè, un'altra delle cose che mi lascia sempre molto molto perplesso, visto che poi oltretutto queste indagini sono durate 3 anni, quindi non un giorno, è come è possibile che un dirigente che sta lì proprio per organizzare al meglio il proprio ufficio non si accorga che i suoi dipendenti, anziché lavorare, se ne stanno tranquillamente al bar. Ecco, questa è una cosa che, lo dico proprio come se parlassimo al bar, mi manda in bestia. Ecco, ma com'è possibile che nessuno sia in grado di capire, di sapere che mentre si dovrebbe stare al lavoro in realtà si sorseggia un caffè? Ecco, ma come può accadere una cosa del genere? È una bella domanda. Teniamo presente che questa è una macchina da 5.250 persone. Sì. Ha, credo, un problema che è strutturale, che è quello di essere molto distribuita sul territorio. Sì, infatti i casi, mi corregga se sbaglio, si riferiscono anche a sedi decentrate del comune, no? È una sede in particolare. Esatto. Cioè, questi casi sono relativi proprio a un ufficio specifico. Peraltro anche un ufficio molto grande. Effettivamente il punto è questo, io credo che sia il frutto di livello di tolleranza, cioè si può tollerare una piccola cosa, poi se ne tollera sempre un po' di più. Qual è il livello di tra virgolette decenza che si può tenere nel rapporto di lavoro tra gli operativi, quindi tra il dirigente? Perché insomma, ci sta benissimo che uno possa avere una necessità, però le regole sono regole. Il fatto di timbrare il cartellino, e questo cioè, ho avuto modo di esperirlo anche nella mia esperienza nel mondo del privato precedente, certo, è comunque vista come una frequente repressione dal dipendente. In realtà è una questione culturale. Certo, ma infatti, perché timbrare il cartellino è cosa giusta e doverosa, cioè fa parte dei doveri contrattuali. Ecco, assessore Falchetti, io le faccio questo appello, questa provocazione. Vedo anche dalle foto che lo ritraggono nelle cronache della Nazione. Mi sembra che lei sia una persona abbastanza giovane, quindi è nei giovani, nelle mani dei giovani, questo benedetto paese che non riesce a crescere. Le faccio questa provocazione. Allora, io ho un sogno, no? Piccolo sogno, per carità, non è che voglio evocare chissà cosa. Che se alla fine si veramente scoprirà che queste persone non hanno adempiuto al proprio dovere per il quale li paghiamo, perché con le nostre tasse ovviamente viene mantenuto il pubblico impiego, il mio sogno è che lei chiama i dirigenti coinvolti, se, ripeto, si scopre che tutto ciò che ha scoperto la magistratura è vero, è provato, chiama i dirigenti Luigi Bianchi e Mario Rossi, nomi di fantasia, e gli dice: sai cosa c'è? Che adesso voi ve ne andate fuori dal comune di Firenze. È un sogno, un incubo, oppure una cosa che, una panzana che non si realizzerà mai? Ma io credo che sia un dovere. Ecco. Bene. È un dovere stigmatizzare il comportamento sleale quando è conclamato. Punto è anche che abbiamo una prassi. Non parlo solo dell'assenteismo, parlo anche del piccolo favore che il dipendente chiede al suo collega per il conoscente. Cioè, questi malcostumi sono questioni probabilmente di abitudine e di prassi, però hanno una radice culturale. Certo, di antica tradizione, diciamo. E su questa bisogna lavorare. Ecco, ma è vero, e questo era l'accenno che facevo prima, che in realtà sarebbero centinaia i dipendenti potenzialmente coinvolti da questa procura, perché se questo fosse vero, insomma, 9 è un conto, ma centinaia di dipendenti è tutta un'altra storia. Questa è una voce, ecco, mentre per l'altra ho avuto modo di vedere che c'era una comunicazione a 9 persone, questa di centinaia è una voce, quindi non sono in grado né di smentirla né di confermarla. Certo, certo, anche perché al momento, come abbiamo ascoltato in questa chiacchierata, purtroppo la linea di comunicazione tra la Procura della Repubblica di Firenze e il Comune, diciamo così, ha singhiozzato, ecco, mettiamolo in questi termini. In realtà in altre situazioni, in altri casi, neppure tanto, però attendiamo fiduciosi, abbiamo chiesto appunto che delucidazioni su questo. Resta il fatto che comunque su questo tema, senza arrivare al brunettismo scandalistico, certo, noi abbiamo già lavorato, non so se è una coincidenza o altro, ma un paio di settimane prima di questo episodio avevamo ribadito attraverso una circolare la regola della pausa del caffè. Bene, bene, questo... se vogliamo è quasi strana questa cosa che poi sia avvenuto questo episodio, però siccome avevamo notato c'era, diciamo, una modalità di gestione, insomma, un po' troppo casuale. Certo. Rimandando, peraltro facendo una comunicazione che le regole del contratto sono queste, e rimandando ai vari direttori, ai vari dirigenti, la gestione poi delle dinamiche dell'ufficio. Io non credo che bisogna vivere la timbratura del cartellino come entro e vengo chiuso in una stanza e poi esco, cioè fa parte delle regole, anche l'orario di lavoro, poi gli uffici è bene che possano avere una buona flessibilità nel gestirlo, perché ci sono esigenze specifiche, noi abbiamo uffici che vanno dai tecnici ai giardinieri, agli impiegati. Certo, con oltre 5.000 persone dipendenti e così. Alla polizia municipale, quindi abbiamo esigenze molto diversificate. Certo. Assessore, io la ringrazio. Responsabilità dei dirigenti. Assessore, io la ringrazio per questa chiacchierata, le auguro, visto che siamo in tema, anche buone festività natalizie. Grazie a Peter Bescapè in regia e ad Elisabetta Fusconi in studio. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.